prima e voi fumate la spree. Pronto? C'è mica la Giovanna? Giovanna, ma c'è il numero si è fatto, tramaone.